16. L'ombra della morte. Il pomeriggio seguente il dottor Donaldson andò per la prima volta a visitare la signora Hale. Il mistero, che Margaret sperava si fosse risolto con la maggiore intimità che si era creata tra lei e la madre negli ultimi tempi, si ripresentò. Fu costretta a restare fuori dalla stanza mentre a Dixon fu permesso di entrare. Margaret non era ancora pronta per l'amore, ma qualora avesse amato l'avrebbe fatto con passione e con una piccola dose di gelosia. Entrò nella camera da letto di sua madre, subito dietro il salotto, e si mise a camminare su e giù, nell'attesa che il dottore uscisse. Di tanto in tanto si fermava ad ascoltare, credette di sentire un gemito, incrociò le mani, stringendole forte, e trattenne il fiato. Era sicura di aver sentito un gemito. Poi non si udì più nulla per qualche minuto, dopodiché ci fu uno spostamento di sedie, si alzarono le voci e si avvertì tutto il leggero scompiglio dei commiati. Quando sentì la porta aprirsi, Margaret si precipitò fuori dalla camera. «Mio padre non è in casa! Dottor Donaldson deve fare lezione a quest'ora, posso pregarvi di venire di sotto nel suo studio?» Margaret si accorse di tutti gli ostacoli che Dixon le metteva davanti e li superò con successo, assumendo così il ruolo di figlia che le spettava, con quello spirito da primogenito che con efficacia frena l'invadenza di un'anziana domestica. La consapevolezza di aver assunto per una volta un comportamento così dignitoso nei confronti di Dixon le donò un breve istante di distrazione nel mezzo di quella preoccupazione. Margaret sapeva, dall'espressione di sorpresa sul volto di Dixon, quanto doveva essere sembrata maestosa. E quell'idea l'accompagnò giù nello studio, dandole un pizzico di incoscienza che le fece dimenticare la gravità della faccenda che aveva per le mani. Poi quel pensiero tornò e sembrò lasciarla senza fiato. Passarono alcuni istanti prima che fosse in grado di parlare, ma poi fu con una certa autorevolezza che chiese: «Che cos'ha, mia madre? Vi sarei grata se mi diceste la semplice verità». Dopodiché, notando una leggera esitazione da parte del dottore, aggiunse: «Sono l'unica figlia che ha. Qui, intendo. Temo che mio padre non sia in apprensione come dovrebbe, e pertanto, se si tratta di qualcosa di serio, bisogna dirglielo con un certo tatto. Io sono in grado di farlo. Sono in grado di prendermi cura di mia madre. Vi prego, parlate, signore. Guardare la vostra faccia e non essere capaci di interpretarla mi spaventa più di quanto potrà fare qualsiasi cosa che direte, ne sono convinta». «Mia cara signorina, la cameriera di vostra madre sembra essere molto efficiente e premurosa, più di un'amica. Io sono sua figlia, signore. Ma se vi dico che lei ha espresso il desiderio che non vi metta al corrente di nulla, non sono né abbastanza docile né paziente per sottostare a questo divieto. Inoltre, sono certa che siete troppo saggio, troppo esperto per aver promesso di tenere il segreto». «Beh», disse lui abbozzando un sorriso, per quanto triste, «su questo avete ragione. Non ho fatto promesse, infatti temo che il segreto sarà svelato presto senza che sia io a rivelarlo». Fece una pausa. Margaret sbiancò, comprimendo un po' di più le labbra. Per il resto rimase impassibile, per merito dell'intuito senza il quale nessun uomo di medicina avrebbe potuto raggiungere quell'eccellenza. Il dottor Donaldson comprese immediatamente che lei gli avrebbe storto tutta la verità, che se fosse stata omessa una sola virgola l'avrebbe capito e che il silenzio sarebbe stato una tortura più terribile del conoscere la verità. Pronunciò due brevi frasi a bassa voce, osservandola tutto il tempo. Le sue nere pupille si dilatarono, infatti, con orrore, e la sua pelle bianca assunse un colore livido. Smise di parlare. Lui aspettò che quello sguardo sparisse, che smettesse di ansimare, poi lei disse: «Vi ringrazio dal profondo del cuore, signore, per la vostra fiducia. Quella paura mi ha tormentato per parecchie settimane. Che agonia! La mia povera, povera mamma!» Le sue labbra iniziarono a tremare e lui lasciò che trovasse sollievo nelle lacrime, sicuro della sua capacità di controllarle. Qualche lacrima, versò soltanto qualche lacrima prima di ricordare tutte le domande che desiderava ardentemente porgli. «Soffrirà molto?» Lui scosse la testa. «Questo non possiamo dirlo, dipende dalla Costituzione, da migliaia di cose, ma le recenti scoperte della scienza medica ci permettono di alleviare molto il dolore». «Mio padre», disse Margaret tremando tutta, Non conosco il signor Hale, intendo dire che è difficile dare consigli, ma fidatevi, come mi avete forzato a dirvi le cose così bruscamente e come avete in qualche modo compreso che non sarei più riuscito a trattenermi, allo stesso modo, senza troppa fatica, sarete capace di dare a vostro padre tutto il conforto che potete. Prima di allora, nel frattempo, tornerò a visitare vostra madre di tanto in tanto, anche se temo che non potrò fare altro che alleviare il dolore. Saranno accaduti tanti piccoli episodi che avranno risvegliato e aumentato la sua preoccupazione, e in tal modo sarà perfettamente preparato. Anzi, signorina mia, anzi, mia cara, ho incontrato il signor Thornton e rispetto vostro padre per il sacrificio che ha fatto, per quanto io lo possa credere in errore. Bene, mia cara, questo è tutto, se non vi dispiace. E ricordate, la prossima volta che verrò lo farò da amico. E dovete imparare a considerarmi come tale, perché il vedersi, il conoscersi in occasioni come questa vale anni di brevi visite mattutine. Margaret non riuscì a parlare per il pianto, ma gli strinse la mano per salutarlo. Che ragazza, quella che chiamo una ragazza straordinaria, pensò il dottor Donaldson quando, seduto nella sua carrozza, ebbe il tempo di esaminare i segni sulla mano che aveva lievemente sofferto per la pressione della sua stretta. Chi avrebbe mai pensato che una mano così piccola potesse dare una stretta simile? Ma ha delle buone ossa, il che conferisce una gran forza. E com'è regale, con quella testa un po' all'indietro all'inizio per costringermi a dire la verità, e poi si è protratta in avanti, impaziente di ascoltare. Ah, che disgrazia! Devo stare attento che non si affatichi troppo, sebbene sia sorprendente quanto queste creature aristocratiche riescano a fare e a sopportare. Quella ragazza ha coraggio da vendere. Un'altra che fosse diventata di quel pallore mortale non si sarebbe mai ripresa senza prima svenire o avere una crisi isterica. Ma lei non avrebbe fatto nessuna delle due cose, non lei. È proprio la sua forza di volontà l'ha fatta rinvenire. Una ragazza come quella conquisterebbe il mio cuore se avessi 30 anni di meno. Bah, è troppo tardi adesso. Ah, eccoci arrivati dagli Archer. Con un saltello balzò giù dalla carrozza, pronto a servire attenzione, saggezza, esperienza, comprensione a questa famiglia, proprio come se non ci fosse nessun altro al mondo. Nel frattempo Margaret era tornata per un momento nello studio del padre per riprendere le forze prima di presentarsi al cospetto della mamma. Oh mio Dio, ma è terribile! Come farò a sopportarlo? Una malattia mortale, senza speranza. Oh, mamma, mamma, vorrei non essere mai andata dalla zia Shaw e vorrei non essere stata tutti quegli anni preziosi lontana da te. Povera mamma, quanto deve aver sofferto. Oh, ti prego, mio Dio, fa che le sue sofferenze non siano troppo acute, troppo terribili. Come farò a vederla soffrire? Come potrò sopportare l'agonia di papà? Oh, ancora non deve saperlo, non così di colpo, lo ucciderebbe. Ma non perderò un altro istante che mi resta con la mia cara e preziosa mamma. Corse di sopra. Dixon non era nella stanza. La signora Hale era distesa su una poltrona, avvolta in un soffice scialle bianco, e portava una graziosa cuffietta indossata per l'arrivo del dottore. Il suo viso era leggermente pallido e il profondo sfinimento dovuto alla visita le conferiva un aspetto tranquillo. Margaret fu sorpresa di vederla così calma. Cosa c'è, Margaret? Sembri così strana. Cosa succede? E poi, appena l'idea di come stessero veramente le cose le si insinuò nella mente, aggiunse quasi infastidita: Non avrai mica visto il dottor Donaldson e non gli avrai fatto domande, vero figliola? Margaret non rispose. Si limitò a guardare verso di lei con aria malinconica. La signora Hale si infastidì ancora di più. Non verrebbe mai meno alla parola che mi ha dato e, oh sì, mamma, l'ha fatto. L'ha fatto, io l'ho costretto, sono stata io, rimprovera me. Si inginocchiò a fianco di sua madre e le afferrò la mano. Non voleva lasciarla andare, nonostante i tentativi della signora Hale di ritirarla, e continuò a baciarla e calde lacrime la bagnarono. Margaret, è stato molto, molto scorretto da parte tua. Sapevi che non volevo che te lo dicesse. Tuttavia, come se fosse stanca di quella lotta, lasciò la sua mano in quella di Margaret, ricambiando debolmente la stretta. Questo incoraggiò Margaret a parlare. Oh, mamma, permettimi di essere la tua infermiera. Imparerò tutto quello che Dixon potrà insegnarmi. Sono tua figlia, lo sai. E penso proprio di avere diritto di fare qualsiasi cosa per te. Non sai quello che chiedi, disse la signora Hale con un brivido. Sì che lo so, so molto di più di quello che pensi. Lascia che sia la tua infermiera, fammi provare almeno. Nessuno mai ha provato, proverà e riproverà con tanto impegno come farò io. Sarà un così grande conforto, mamma. Oh, mia povera bambina. Va bene, provaci. Sai, Margaret, Dixon e io pensavamo che ti saresti quasi allontanata da me se l'avessi saputo. Dixon pensava? Disse Margaret con le labbra che si imbronciavano. Dixon non riuscirebbe a credermi capace di un amore abbastanza sincero, non quanto il suo. Credo abbia pensato che fossi una di quelle povere ragazze sempre malaticce a cui piace stare distese sopra petali di rose e farsi aria con un ventaglio tutto il giorno. Non lasciare che le fantasie di Dixon si intromettano fra te e me, mamma. Non farlo, ti prego. Implorò. Non prendertela con Dixon, disse la signora Hale preoccupata. Margaret si ricompose. No, non lo farò. Cercherò di essere umile e di imparare da lei. Se solo mi lascerai fare tutto quello che posso per te, fammi stare al primo posto, mamma. Non sai quanto lo desidero. Immaginavo che mi avresti dimenticata mentre ero da zia Shaw e la sera spesso mi addormentavo piangendo con quell'idea in testa. A me capitava di pensare come farà Margaret a sopportare il nostro arrabattarci nella miseria dopo tutte le comodità e il lusso di Harley Street, fino a vergognarmi che tu fossi lì a vedere i nostri espedienti nella cara Helston, più che se qualsiasi estraneo li avessi scoperti. Oh mamma, e a me divertivano così tanto. Erano molto più divertenti di tutta la routine di Harley Street. La mensola dell'armadio con le maniglie che faceva da vassoio per la cena nelle grandi occasioni e le vecchie casse del tè imbottite e rivestite come ottomane, quelli che definisci espedienti di fortuna nella cara Helston, erano un lato affascinante di quella vita. Non rivedrò mai più Helston, Margaret, disse la signora Hale con gli occhi che le si bagnavano di lacrime. Margaret non riuscì a rispondere. La signora Hale continuò: finché ho vissuto lì ho sempre desiderato lasciarla. Ogni altro posto sembrava più gradevole e ora morirò lontana da lì. Sono punita, giustamente. Non devi parlare così, mamma, disse Margaret con tono impaziente. Ha detto che potresti vivere per anni. Oh, mamma, ti riporteremo di nuovo Helston. No, mai. Devo prenderla come una giusta penitenza. Ma Margaret, Frederick, nel pronunciare quella sola parola, gridò inaspettatamente come per un qualche acuto dolore. Era come se il pensiero di lui sconvolgesse tutto il suo autocontrollo, distruggesse la calma, vincesse lo sfinimento. Un grido violento e passionale fu seguito da un altro grido. Frederick, Frederick, vieni da me, sto morendo. Il mio primogenito, vieni da me ancora una volta. Era in preda a una violenta crisi isterica. Margaret andò a chiamare Dixon, terrorizzata. Dixon arrivò sbuffando e la accusò di aver fatto agitare sua madre. Margaret sopportò tutto docilmente, sperando solo che suo padre non tornasse, nonostante la sua apprensione, che era anche maggiore di quanto la circostanza richiedesse. Obbedì prontamente e completamente a tutte le istruzioni di Dixon senza dire nulla per giustificare le proprie azioni. E così facendo rabbonì la sua accusatrice. Misero a letto la mamma e Margaret si sedette accanto a lei finché non si addormentò e poi fino a quando Dixon non le fece cenno di uscire dalla stanza. E con un'espressione acida, come se stesse facendo qualcosa controvoglia, la invitò a bere una tazza di caffè che aveva preparato per lei in salotto. E la sorvegliò con aria imponente mentre lo faceva. Non dovevate essere così curiosa, signorina, e poi non avevate bisogno di affliggervi prima del tempo. Sarebbe arrivato molto presto il momento, e ora mi sa che lo direte al padrone, e una bella atmosfera ci sarà in casa grazie a voi. Oh no, Dixon, disse Margaret addolorata, non lo dirò a papà, non riuscirebbe a sopportarlo come me. E a dimostrazione di quanto lo sopportava bene, scoppiò in lacrime. Ah, sapevo che sarebbe andata così. Ora sveglierete vostra madre dopo che è appena andata a dormire, così tranquilla. Signorina Margaret, mia cara, sono parecchie settimane che mi trattengo e anche se io non ho la presunzione di poterla amare quanto voi, le ho voluto comunque bene più di qualsiasi altro uomo, donna o bambino. Nessuno, tranne il padroncino Frederick, ha mai avuto un posto vicino a lei nel mio cuore. Non ho mai voluto bene a nessuno come ne ho voluto a lei, sin da quel giorno in cui la cameriera della signora Beresford mi portò per la prima volta a vederla tutta ghindata, in crepe bianco, con le spighe di grano e i papaveri rossi, e io mi infilzai il dito con un ago e l'ago si ruppe, e lei strappò il suo fazzoletto ricamato dalla tasca durante una pausa e tornò a bagnarmi le bende con la lozione quando rientrò dal ballo, dove era stata la ragazza più graziosa di tutte. Allora non pensavo che sarei vissuta per vederla trascinata così in basso. Non intendo incolpare nessuno. Più di uno dice che siete graziosa, attraente e quant'altro, persino in questo posto così fumoso da rendere i ciechi, le civette ci vedono bene. Ma non sarete mai come vostra madre quanto a bellezza, mai, neanche se vivrete fino a 100 anni. La mamma è ancora molto bella, povera mamma. Non ricominciate adesso. O alla fine cederò, piagnucolò Dixon. Non ce la farete mai a sostenere il ritorno a casa del padrone e le sue domande in questo stato. Uscite a fare una passeggiata e quando tornerete starete meglio. Quante volte ho desiderato di camminare per farmelo passare. Il pensiero di cosa aveva e di come tutto dovrà finire. Oh, Dixon, disse Margaret, quante volte sono stata di cattivo umore con te, ignorando che terribile segreto eri costretta a tenere. Vi benedico, figliola. Vorrei vedervi un po' animata. È il buon vecchio sangue dei Beresford. Santo cielo! Sir John, il terz'ultimo, ha sparato al suo maggiordomo, lì su due piedi, soltanto perché aveva detto di aver torturato gli affittavoli. E di averli torturati davvero, fino a quando non era riuscito più a spillare loro un soldo, non più di quanto sarebbe riuscito a cavare la pelle a un sasso. Beh, Dixon, non ti sparerò e cercherò di non essere più di cattivo umore con te. Non lo siete mai stata. Se l'ho detto qualche volta, l'ho detto sempre tra me e me, solo in privato. Per fare un po' di piacevole conversazione, dato che non c'è nessuno abile a conversare qui, e quando vi arrabbiate siete l'immagine esatta del padroncino Frederick, potrei trovare nel mio cuore il modo di farvi arrabbiare comunque, qualche volta, soltanto per vedere il suo sguardo tempestoso arrivare come un'enorme nuvola sul vostro viso. Ma adesso uscite, signorina, starò attenta alla signora e quanto al padrone, la compagnia dei suoi libri gli basterà se dovesse rientrare. Vado, disse Margaret. Si trattenne accanto a Dixon per qualche minuto, come timorosa e indecisa, e poi all'improvviso le diede un bacio e uscì di corsa dalla stanza. Che Dio la benedica, disse Dixon. È dolce come il miele. Ci sono tre persone a cui voglio bene: la signora, il padroncino Frederick e lei. Solo loro tre, nessun altro. Tutti gli altri che muoiano impiccati, perché non so che cosa ci stanno a fare al mondo. Il padrone è nato, suppongo, per sposare la signora. Se avessi pensato che l'amasse sul serio, avrei potuto imparare ad amarlo col tempo, ma avrebbe dovuto trattarla meglio e non stare sempre a leggere, leggere, pensare, pensare. Guarda dove l'hanno portato. Sono in molti quelli che non leggono mai e neanche pensano, che diventano rettori, decani e non so cos'altro, e scommetto che il padrone avrebbe potuto farlo se gli fosse importato della signora e avesse lasciato perdere quelle strane letture e quei pensieri. Oh, eccola che va, disse guardando fuori dalla finestra dopo aver sentito la porta d'ingresso che si chiudeva. Povera ragazza, i suoi abiti sono più logori di com'erano quando arrivò a Helston un anno fa. E poi non ha avuto altro che calze rammendate o un paio di guanti puliti in tutto il guardaroba. E adesso. 17. Che cos'è uno sciopero? Margaret uscì con il cuore pesante e controvoglia. Ma le bastò percorrere una sola strada, sì, sentire l'aria di una strada di Milton, per sentirsi rinvigorire prima di raggiungere la prima svolta. Il suo passo si fece più leggero, le sue labbra più rosse. Iniziò a guardarsi intorno, invece di rimanere così totalmente assorta nei suoi pensieri. Vide gente che ciondolava per le strade in modo insolito, uomini che gironzolavano con le mani in tasca, gruppetti di ragazze che ridevano fragorosamente e parlavano ad alta voce, in apparenza eccitate ed euforiche, mostrando un'esuberante indipendenza nel carattere e nei modi. I tipi più loschi, una disdicevole minoranza, oziavano sui gradini delle birrerie e delle botteghe del gin, fumando e facendo commenti piuttosto audaci su ogni passante. Il gin, importato in Inghilterra dagli olandesi dopo la rivoluzione del 1688, divenne molto popolare in seguito alla concessione da parte del governo di produrlo senza licenze. Questo aveva portato, purtroppo, alla diffusione di migliaia di botteghe del gin in tutta l'Inghilterra. A Margaret non piaceva l'idea di una lunga camminata per queste strade prima di arrivare ai campi che aveva in mente di raggiungere. Piuttosto sarebbe andata a trovare Bessie Higgins. Non sarebbe stato così rigenerante come una buona, tranquilla passeggiata in campagna, ma forse sarebbe stata comunque una buona azione. Nicholas Higgins stava fumando, seduto vicino al fuoco, quando lei entrò. Bessie era dall'altra parte che si dondolava. Nicholas si tolse la pipa dalla bocca e, alzandosi, spinse la sua sedia verso Margaret. Poi si appoggiò alla mensola del caminetto con atteggiamento indolente, mentre lei chiedeva a Bessie come stava. Ha il morale a terra, ma di salute sta meglio. Non le piace mica sto sciopero a lei. C'ha sta fissa con la pace e la tranquillità a tutti i costi. Che è il terzo sciopero che vedo questo, disse lei sospirando, come se questo bastasse come risposta e come spiegazione. Beh, la terza volta è quella buona. Vedrai se non li roviniamo i padroni stavolta. Vedrai se non ci pregano di tornare a noi e al nostro prezzo. Fine del discorso. Non ce l'abbiamo fatta in passato, lo ammetto, ma stavolta abbiamo fatto bene i nostri conti e andremo fino in fondo. Perché scioperate? Chiese Margaret. Scioperare significa che non andrete a lavorare finché non otterrete il salario che chiedete, giusto? Non stupitevi della mia ignoranza, non ho mai sentito parlare di sciopero dove vivevo prima. Magari essere là, disse Bessie stremata. Non sono affar mio gli scioperi, sono malata e stufa marcia. Questo è l'ultimo che vedo. Prima che finisce sarò nella città celeste, nella Santa Gerusalemme. Oh, è tutta presa dall'altra vita, non ce la fa a pensare a questa lei. Ma io, vedete, continuo a fare il meglio che posso qua giù. Penso che è meglio un uovo oggi che una gallina domani. Ecco la differenza d'opinione tra me e lei sullo sciopero. Ma, disse Margaret, se la gente facesse sciopero come dite voi, dove vivevo io, poiché la maggior parte lavora nei campi, non si seminerebbe, non si raccoglierebbe il fieno, non si mieterebbe il grano. E allora? Disse lui. Aveva ricominciato a fumare la sua pipa, dando a quella allora un tono interrogatorio. Beh, continuò lei, che cosa ne sarebbe dei fattori? Lui buttò fuori il fumo. O lasciano le loro fattorie, o danno salari più giusti, suppongo. Beh, supponete che non possano o non vogliano fare quest'ultima cosa. Non possono lasciare tutti le loro fattorie così su due piedi, per quanto magari vorrebbero farlo, ma non lo avrebbero. Non avrebbero il fieno né grano da vendere tutto l'anno e dove prenderebbero i soldi per pagare i salari dei braccianti dopo? Lui continuava a tirare la pipa, poi finalmente disse: E che ne so io di come fate giù al sud? Si dice che sono un branco di pecoroni avviliti dei morti di fame, troppo instupiditi dalla pancia vuota per accorgersi quando li calpestano. Beh, qui non è così. Noi ci accorgiamo quando ci calpestano e ci abbiamo troppo sangue che ci ribolle di rabbia per sopportarlo. Basta che togliamo le mani dai telai e diciamo: fateci pure crepare di fame, ma calpestarci mai, cari padroni. Maledetti, non ce la faranno questa volta. Oh, magari che vivevo giù al sud, disse Bessie. C'è tanta sofferenza lì, disse Margaret. Dappertutto c'è gente che soffre. Bisogna sottoporsi a un duro lavoro fisico e c'è poco cibo a dare forza. Ma si sta all'aperto, disse Bessie, è lontano dal rumore che non finisce mai, mai, è da sto caldo nauseante. A volte piove molto e a volte fa molto freddo. Un uomo giovane riesce a sopportarlo, ma uno anziano è torturato dai reumatismi e diventa curvo e avvizzito prima del tempo. Eppure deve continuare ugualmente a lavorare, altrimenti finisce in un ricovero per i poveri. Pensavo che vi piacevano tanto le usanze del sud. Infatti, disse Margaret accennando un sorriso, trovandosi colta in contraddizione. Volevo soltanto dire, Bessie, che in questo mondo c'è il buono e il cattivo in tutte le cose, e dal momento che provate il male quassù ho ritenuto giusto che sapeste che c'è il male anche laggiù. E voi dite che laggiù non scioperano mai? Chiese Nicholas in modo brusco. No, disse Margaret, penso che abbiano troppo buon senso. E io penso, replicò lui, svuotando la pipa con una tale veemenza da farla rompere, che hanno poco fegato, altro che troppo buon senso. Oh, papà, disse Bessie, cosa ci avete guadagnato scioperando? Pensa a quel primo sciopero quando è morta la mamma, abbiamo tutti patito la fame. Tu eri quello messo peggio, ma molta gente in fabbrica ci è andata ogni settimana per la stessa paga finché non ci sono tornati tutti quelli per cui c'era lavoro, mentre gli altri sono andati a mendicare per tutto il resto della loro vita. Ah, disse lui, quello sciopero là non è stato mica fatto bene, razza di gente che l'ha organizzato, buffoni e scansafatiche, vedrai, sarà diverso stavolta.